Avventurieri, avete sbloccato la porta. Ora potete entrare. Siete sicuri? Forse era chiusa per un motivo. Continua a lamentarti e ti userò come ariete.